Geloso, un poco. collerico, mannatico, di me fuoco di pecio lezzi, nervoso, acciuta! Eccole lì, poveretta! Passeggia con tutti un mostarino di biscontino di pallocchio di triglia e la sgomela e sopra la caviglia con un far promettente lusinier lo devo dire non mi sembri sincer ebbene no non lo so in vari non nascondo la mia vera cultura amami mi vorrei di pagamento il Thank you. Io non faccio la cima di me.